A questo punto il Musalli si mette in posizione di Julus e recita la giaculatoria che si chiama At-Tashahhud. La parola significa pronunciare la formula della testimonianza come segue: At-Tahiyyatu lillahi wa zakiyyatu lillahi wa tayyibatu wa salawatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Il che significa: gli onori divini sono dovuti ad Allah, gli atti di purificazione sono eseguiti per Allah e le buone azioni e i riti di adorazione sono per Allah. La pace sia su te, o profeta, la misericordia di Allah e le sue benedizioni, la pace su noi e sui pii servitori di Allah. Attesto che non c'è divinità tranne Allah, il quale non ha compartecipi nella sua qualità divina, e attesto che Muhammad è suo servo e suo apostolo.